Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Nella puntata di ieri sera abbiamo visto come siano già 5 milioni gli oggetti collegati in qualche modo al web tramite la rete cellulare. Circa 2 milioni sono automobili attrezzate con un sistema GPS dotato di SIM che funziona da antifurto evoluto e insieme anche permette di evitare le truffe assicurative. Molti, 1,5 milioni circa, sono apparati tecnologici come quelli che fanno funzionare la rete elettrica. Circa 1 milione invece sono oggetti legati alla domotica come sistemi di riscaldamento attivabili a distanza. Tutto questo in un rapporto sull'Internet of Things, l'Internet delle cose, curato dal Politecnico di Milano, in particolare da Angela Tumino, che è tornata a trovarci questa sera, perché dopo questa fotografia che abbiamo appunto fatto ieri dell'Internet delle cose così come è oggi, questa sera cercheremo di capire come invece si sta svolgendo il film, per così dire. Buonasera Tumino, intanto bentornata. Buonasera. Dunque, c'è stata una crescita, mi pare, significativa già anche solo nel corso dell'ultimo anno, ma è un fenomeno solo all'inizio. Da un lato, quindi, si estenderà a molti più oggetti che oggi non sono connessi. Dall'altro, forse c'è già oggi la possibilità di fare di più con i dati che ci sono. Se ho capito bene, emergono entrambi questi aspetti dalla vostra ricerca. Sì, emergono entrambi. Beh, confermo, la crescita che si è registrata nel 2012 è pari al 25%, quindi se lo contestualizziamo poi nella situazione attuale del mercato, una crescita a due cifre è decisamente interessante ed è superiore a quella registrata l'anno scorso, certo, che era del 13%. E questo, unito al fatto che nel frattempo, negli anni, sono maturato un numero crescente di tecnologie, pone le basi per quella che poi è la diffusione che ci aspettiamo nei prossimi anni. Che ha, diciamo, le caratteristiche del boom, insomma, esatto, da quello esatto, che capisco. Dove non ci aspettiamo di non parlare più di milioni di oggetti, ma di miliardi. Passare rapidamente a decine, centinaia di milioni, magari poi miliardi di oggetti. Esatto. Ecco, invece, per quanto riguarda quello che già oggi si potrebbe fare con questi dati, che magari ancora non si fa? Allora, beh, un tema è sicuramente legato al mondo del trasporto, dell'infomobilità. Oggi ci sono tante reti di raccolta di informazioni sul trasporto. Parlavamo prima dei veicoli privati, sì, ma altrettante reti sono relative ad esempio anche ai mezzi per il trasporto pubblico e così via. Queste informazioni sono spesso tenute però in maniera separata, ognuno le guarda indipendentemente. Ne fa il proprio uso, diciamo, guarda il proprio sottogruppo, diciamo, di mezzi in circolazione. Faccio capire una cosa, sono più di 2 milioni gli autoveicoli già connessi, probabilmente anche un campionamento già sufficientemente fitto per sapere qual è la condizione del traffico quasi ovunque in Italia. 2 sì, milioni di punti di prelievo, di campioni, non sono pochi. Per questo ci sono infatti già delle applicazioni, sono tipicamente poi offerte da chi vende e distribuisce queste box assicurativi, poi hanno dei siti, dei portali in cui è possibile andare a monitorare il traffico lungo le principali direttrici. Cosa simile avviene per i TomTom Live, quindi TomTom che sono connessi alla rete, anche in quel caso l'indicazione del traffico è stabilita anche sulla base della ubicazione degli altri TomTom attivi. Ok, ecco, ma ognuno di questi operatori lavora coi propri dati o tutti li mettono insieme? In questo momento, per quello che ci risulta, la maggior parte degli operatori lavorano con i propri dati e questo va esattamente nella direzione che dicevamo prima. Ecco, questo ci porta tra l'altro ad un altro aspetto che voi stressate abbastanza ed è, diciamo, legato oggi al rischio, mettiamola così, di un proliferare eccessivo di infrastrutture per far circolare questi dati prodotti dagli oggetti che saranno sempre di più connessi alla rete. C'è un rischio di ridondanza che diventa una replicazione inutile, anche di costi. Mi sembra che voi lanciate quasi un allarme su questo. Assolutamente sì, per due motivi principali. Il primo, perché ormai siamo comunque in una condizione, una congiuntura economica in cui non ci possiamo permettere di sprecare denaro, perché rischiamo di perdere opportunità e proprio di non riuscire a implementare, certo, poi queste applicazioni. Certo. Poi le applicazioni potenziali sono tante, quindi vale la pena investire quei soldi per abilitare più servizi alle persone. Invece che replicare l'infrastruttura. Ecco, ci fa qualche esempio? esempio, di infrastrutture concorrenti, per esempio, oggi? Ad esempio, basta guardare tutto quello che sta accadendo all'interno delle città, nelle smart city, i diversi ambiti di applicazione, diciamo, dell'internet delle cose all'interno della smart city, quindi la gestione del traffico piuttosto che l'illuminazione, la gestione dei parcheggi e così via, in questo momento vengono tutto sommato ancora visti e implementati spesso in maniera individuale. C'è qualche operatore che inizia a spingere su sinergie tra due, tre applicazioni, ma manca in questo momento, a nostro avviso, una visione di sistema su come potrebbe essere un'infrastruttura che vada ad abilitare tanti servizi all'interno della città. Ecco, insomma, che possa costituire una spina dorsale, un'ossatura sulla quale poi attaccare tutte le robe che servono. Ecco, voi mi pare che proponiate sostanzialmente la rete sulla quale dovrebbero viaggiare i dati relativi ai consumi di gas. In Italia abbiamo 35 o giù di lì milioni di contatori intelligenti dell'energia elettrica e penso primi al mondo ci attrezziamo ad avere più o meno altrettanti contatori intelligenti del gas. Voi dite lì bisognerà mettere in piedi un'infrastruttura, mi pare di capire, utilizziamo quella. Assolutamente sì. Entro il 2018 il 60% dei contatori domestici dovrà essere intelligente, quindi in grado di comunicare i propri consumi. Beh, per fare questo, nella sostanza, bisogna mettere in piedi una rete wireless, diversa da quelle esistenti, perché le tecnologie attualmente diffuse, pensiamo al Wi-Fi, non vanno bene per le caratteristiche di questi contatori dal punto di vista tecnologico. E questo fa sì che necessariamente si dovrà mettere in piedi una nuova infrastruttura wireless che tutto sommato però sarà molto fitta, ma vedrà transitare poche informazioni. Basterebbe comunicare una lettura, diciamo, ogni ora e sarebbe già una roba ampiamente, immagino, no? Superiore a qualunque necessità, sappiamo, di consumo di gas. In questo momento già ci si orienta per avere una lettura, diciamo, tipo giornaliera. Ecco, quindi, sì, insomma, come dire, un oceano silenzioso in cui ogni tanto si sente un suono di balena, ma per lo più è silenzioso. Dice, beh, già che ci siamo, dobbiamo mettere in piedi questa roba che deve essere wireless, anche perché i contatori del gas devono stare lontani dall'energia elettrica, è pericolosissimo tenerli vicini. E quindi dice, su questa infrastruttura possiamo far viaggiare un sacco di... Sì. Grazie Angela Tumino. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.